A Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Oggi non vi invito a partecipare, non vi invito a chiamare, perché ho un ospite con cui voglio deliziarvi per un'ora su tutti gli argomenti dello scibile umano relativi al calciomercato. Sono arrivati, scaricano soldi e palati, le ragioni sono svariate e mai svelate. Le stelle sono tante, milioni di milioni, cadono seduta stante sopra i soliti palloni. Così mio calciatore, portaci le prove. Avrete riconosciuto, se non l'avete, ma perché numero uno di iTunes, cantante Alessandro Bonan, mio ospite non cantante invece Fabrizio Ferrari, procuratore, avvocato e uomo di mercato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da questa canzone di Bonan. Ti piace come cantante? Non moltissimo, secondo me sta meglio in televisione. Non canta benissimo. No, però... Però una grande operazione. Grandissima operazione, sia di marketing che dal punto di vista proprio benefico, perché insomma fatto a favore dell'Emilia per tutte le vittime terremoto, direi decisamente una grandissima operazione. Sono stati veramente molto bravi. Sono stati molto bravi, come d'altra parte Speciale Calciomercato, un programma cult che tutti gli amanti dello sport si divertono a guardare. Sì, io non amo moltissimo, diciamo, la parte un po' ludica che fanno, però secondo me, per esempio, Bonan poi insomma gestisce le redini del programma in modo molto divertente, simpatico, e poi Gianluca Di Marzio è un grandissimo esperto di calciomercato. E sono rari gli esperti di calciomercato. Sono pochissimi. Lo sai anche tu, anzi molto meglio di me. No, ma poi a me piace invece anche la parte ludica, perché insomma sullo sport secondo me bisogna anche sorriderci un po'. Certe volte quando si parla di sport, ma soprattutto di calcio, sembra di parlare di macrosistemi, quando non è il caso. È un divertissement. Ti do ragione. A proposito, partiamo dagli europei, caro Fabrizio, e da questa nazionale creata in un paese di vecchi da Cesare Prandelli. C'è chi è ancora incazzato come una bestia per il 4-0 preso con la Spagna e dice tutto da buttare, e secondo me sbaglia di grosso. Io, il mio voto alla nazionale agli europei è 8,5-9. Concordo, decisamente, perché era una nazionale da cui nessuno si sarebbe aspettato questo tipo di risultato. Tutti pensavano, ma sai, magari passiamo il primo turno, però poi faremo fatica. Invece abbiamo dimostrato per la prima volta dopo tanti anni di poter giocare un ottimo calcio. Avevamo una squadra che, a detta di tutti i tecnici e di tutti i giocatori che l'avevano vista allenarsi, con una grandissima tecnica, moltissimi giocatori di qualità, tanti quanti non avevamo mai visto in una nazionale di calcio italiana. E forse questo ha creato anche un meccanismo per cui in finale siamo arrivati veramente un po' stanchi, dove veramente c'era non c'era quel tipo di ritmo per poter tenere duro. Ma i tornei così si fanno discorsi di stanchezza che io condivido poco, perché tre giorni prima avevamo distrutto la Germania. La Spagna sembrava invece non averne quasi più contro il Portogallo. Secondo me sono tornei così belli, ma così anacronistici, così emotivi, se mi passi il termine, per i quali conto nei dettagli. La Germania l'abbiamo distrutta dopo che stavamo soffrendo come cani. Abbiamo fatto gol con Balotelli dopo 14 minuti, la Germania ha fatto come un palloncino, si è lentamente sgonfiata, e al secondo gol di Balotelli è esplosa, tanto che io ero a Varsavia nel secondo tempo, la partita la guardavo quasi distrattamente perché sapevo già come andava a finire. No, ma secondo me è stata una grandissima Italia, condivido il voto altissimo che hai dato, perché comunque un'Italia che impone il suo gioco nelle sue partite migliori contro l'Inghilterra e la Germania era veramente tanto che non la vedevamo. Insomma, eravamo tacciati di catenaccio, di contropiede, eccetera. Abbiamo dimostrato che abbiamo dei giocatori che possono veramente imporre il loro gioco. Sì, adesso Prandelli vuole fare gli stage dall'alto del suo potere presidenziale, però secondo me è qualcosa che serve abbastanza a poco. Non so dove si voglia arrivare, io sono dell'idea di Platini, cioè concentrare il lavoro delle nazionali dopo la stagione dei club, sì, cioè dare ogni anno quel mese e mezzo o il tempo che serve per allenarsi, per giocare le partite di qualificazione ai vari tornei, insomma per concentrare lì il periodo delle varie nazionali. Concordo. Intanto però uno dei giocatori che ci auguriamo tutti possa essere futuro della nazionale, cioè Verratti, è andato, volato via. Ma non so se abbia ancora firmato, però è chiaro che un'offerta del Paris Saint-Germain era esattamente quello che il Pescara voleva, cioè cash, vero, non metà di giocatori, non ti prometto che poi dopo ti do, ma poi dopo ci mettiamo d'accordo, voleva il cash. Ha traballato sull'offerta del Napoli, e inevitabilmente se il Paris Saint-Germain mette sul tavolo i soldi che ha dello sceicco, onestamente non posso dare torto a Dell'Icarri che è andato a Parigi a negoziare. Senti, tu che sei un profondo conoscitore del calcio francese, che hai procure di molti giocatori francesi anche di grande valore, di grande prospetto, no? Di grande prospetto. Ho anche un po' esagerato perché poi non li prende più nessuno. Sì, eh? Dicene un paio. Beh, ho preso il mandato per Yann Nvilá, il centrocampista centrale del Rennes. Ma chi è quello che va davanti alla disciplinare? È lui. Ecco, allora partiamo da questa storia della disciplinare. Giocatori francesi, c'è Villa, c'è Nasri, c'è Menez e Ben Arfa, tutti davanti alla disciplinare per i casini combinati durante, sì, l'Europeo. Esatto. Nazionale francese, secondo me, era quella con forse più talento puro a disposizione tra tutte quelle che c'erano in Polonia ed Ucraina. E si sono sgozzati tra di loro facendo il solito europeo in colore. Per la seconda volta consecutiva in una competizione importante dopo i mondiali e le vicende tristi con Domenech, con salite sul pullman in ciabatte da parte dei giocatori, litigi interni con Anelka che parte, va via, poi ritorna, poi dopo dicono non presentarti più, sono stati veramente... Insomma, si sono sfaldati alla prima difficoltà. E questa era una cosa che non si aspettavano nemmeno i francesi, perché avevano dato l'incarico a Blanc, perché sembrava una persona di una certa rigidità morale e di una importanza carismatica che potesse permettere ai giocatori di essere uniti. E invece anche Blanc ha fallito, clamorosamente, ti direi di più. Perché mi aspettavo anch'io una forza importante di questa Francia, che è stata veramente ridicola nel momento importante. Giovani giocatori francesi che sono tutti un po' ballotelleschi, eh? Un po' troppo ballotelleschi, cioè? Litigano tutti, lo stesso Ben Arfa, che è un talento clamoroso, che è andato via da una squadra come il Lione per poi andare a Marsiglia, per poi dopo andare a Newcastle, giocatore che se fosse stato in Italia possiamo paragonarlo a una Juventus, a un Milan, come se fosse andato poi dopo a un Chievo per poi dopo andare in un'altra squadra straniera, cioè insomma situazioni particolarissime, veramente molto strane. E questo Villa di cui hai la procura com'è? Non la procura, ho il mandato per l'Italia. E è un giocatore veramente molto forte, un carattere un po' difficile, così se vogliamo usare questo eufemismo, però un giocatore veramente molto forte, con un talento incredibile. Lo vorrei paragonare un po', se vogliamo, a un Cambiasso francese. Ecco. Quindi un giocatore molto interessante, testa ricamata, che va davanti alla disciplinare. Scusate, giustamente. Sì, sì. Perché, cioè, voglio dire, se io sono la federazione francese e vedo quello che è successo negli spogliatoi, quello che si dice, se è successo negli spogliatoi o nei cambi effettuati da Blanc, io chiamo tutti davanti alla disciplinare per capire i motivi. Allora, Fabrizio Ferrari, prima di passare agli intrighi del nostro mercato, Zizou sulla panchina della Francia, io non ce lo vedo, ti dico la verità, ma non ce lo vedo perché non vedo Zidane allenatore, neanche commissario tecnico. Poi magari accetta e la Francia vince i prossimi 8 campionati del mondo. No, neanche io lo vedo benissimo in questo tipo di ruolo, in realtà, perché abbiamo visto sempre un Zizou piuttosto lontano sia dai microfoni che dalle vicende proprio calcistiche pure, no? Appena finito di giocare. Quindi, non so, ha un'immagine un po' diversa da quella del vero commissario tecnico. Diciamo che secondo me la federazione francese è in confusione, non sa bene da che parte girarsi per cercare qualcuno che possa arginare queste rivoluzioni interne. Sì. E forse l'immagine di Zidane, questo fantomatico numero 10, può essere quello che salva tutto, ma non credo che siano dalla parte giusta. Va detto che se si presenta Zizou davanti ai vari Nasri, Ben Arfa, il tuo Villa, eccetera, eccetera, questi non aprono bocca. Zitti, zitti e mosca. Può essere. Allora, se fosse così, allora è la persona giusta. Lui è carisma allo stato puro. Certo. Io penso che appenderebbe al muro questi ragazzini con un dito solo. Speriamo comunque, allora, che trovino qualcuno, la retta via, ecco. Comunque, veniamo ai nostri intrighi di mercato, a partire da parole di Handanovic, nuovo portiere dell'Inter. Sì, io volevo andare in una grande squadra, sono arrivato e sono contento. Vabbè, ancora non so niente, vediamo, prima devo anche vedere un po' con altra gente come e quando. Per Udinese devo ringraziare a tutti e intanto avrò modo di andare a salutare a tutti, anche dire due parole a loro, ai miei giornalisti che sono stati 6 anni e ai miei tifosi che meritano. Questo era il nuovo portiere dell'Inter. Sentiamo invece quello vecchio, io credo, cioè Julio Cesar. Allora, questo ti posso dire la verità, non c'è niente. Tante persone mi stanno chiamando per questa cosa, anche i tifosi adesso mi fermano in giro, ma di ufficiale non c'è niente, ti assicuro. Di ufficiale non c'è niente a proposito dell'interessamento del Milan. Spiegami questa storia. Cioè, Julio Cesar non era il più forte portiere del mondo e adesso non è convocato per il ritiro dell'Inter che prende Handanovic, e Julio Cesar potrebbe andare al Milan, cosa che secondo me è piuttosto bizzarra, essendo il Milan ha bisogno di tante cose il Milan, ma forse in quel non ruolo del portiere. Io, no, Abbiati garantisce assolutamente in maniera ampia. Spiegami questa storia. Io credo che dipenda molto dalla linea che ha dato il presidente Moratti, nel senso che vuole decisamente abbassare il tetto ingaggi, e lo ha fatto cercando di risolvere i contratti dei giocatori che, fra virgolette, non gli servivano più o perlomeno non erano più indispensabili al progetto Inter dei prossimi 3 anni. Quindi Forlan, quindi Lucio, quindi Julio Cesar, che hanno dei, quindi la eventuale cessione di Maicon, quindi probabilmente Pazzini, probabilmente, insomma, una serie di giocatori che hanno degli ingaggi importanti e che probabilmente Stramaccioni, d'accordo col presidente, ha deciso di, che, insomma, che possono anche non far parte del progetto dell'Inter futura. Sì, io posso capire tutti questi nomi, tutti tranne uno, e cioè Pazzini. Tra l'altro Ciro Ferrara, neo allenatore della Sampdoria, ne ha parlato di questo possibile ritorno di Pazzini in blu cerchiato. È un aspetto importante, non credo che torni perché c'è Ciro Ferrara, torna perché c'è una società solida, una società e una squadra in cui si è trovato bene. Nessun tipo di preclusione tecnica su Pazzini, ma ci sono dei discorsi che vanno al di là. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra, di non mettere subito sul piatto e di lasciarci andare a facili entusiasmi. Quindi torna alla Sampdoria? Insomma, le parole di Ciro Ferrara sono state piuttosto eloquenti. Sì. Mi domando chi paga l'ingaggio di Pazzini. Questa è una vera domanda. Io credo che l'Inter comunque stia lavorando per abbassare il tetto ingaggi di tutti i giocatori. Sì, vuole veramente tenere un tetto ingaggio attorno ai 2,5-3 milioni netti. Sì. Perché ricordiamoci che in Italia si parla sempre di netto. Sì, sicuramente. Però a questo punto si tratta di capire se l'Inter che potrebbe nascere sarà un Inter subito vincente, come dice il presidente Moratti ieri sulla Gazzetta dello Sport. Questa nuova Inter mi entusiasma e sarà vincente. Che lo entusiasmi, vabbè, è una questione personale. Sul sarà vincente, al momento non mi sembra. Bah, se dobbiamo confrontarla quella che la squadra ha messa in piedi dalla Juventus, è piuttosto complicato, perché la Juventus ha fatto quei 2-3 ritocchi e probabilmente ne farà un terzo per renderla veramente uno squadrone notevolissimo, al pari delle Juventus vincenti pluriennali. Sì. Mentre l'Inter sta assumendo una nuova identità, con un allenatore nuovo, con dei giocatori che abbassano l'età media dell'Inter, quindi sta veramente cambiando pelle. È chiaro che se la devi confrontare anche col Milan, io credo che ci stia assolutamente. Il Milan non ha fatto degli acquisti straordinari fino adesso, quindi se la devi paragonare alla seconda, alla terza forza, alla quarta, secondo me l'Inter ci sta. Tu conosci il mercato francese a proposito di Milan, Traoré? Referenze di Traoré. Allora, no, non vorrei adesso essere troppo negativo nei confronti di un giocatore che conosco mediamente, nel senso, sì, è un giocatore che giocava nel Nancy, una squadra di medio-basso livello della Ligue 1, è un giocatore su cui comunque il Milan ha fatto un'operazione delle sue solite, fra virgolette. Giocatore a parametro zero, l'ha fatto anche con Taiwo, ed è un giocatore con grande forza fisica, e probabilmente lo staff tecnico ha visto in lui una possibilità di progressione sia tecnica che fisica importante. Come con Taiwo l'anno scorso, uguale. Spero mi stai meglio. Dicendo questo. Mi stai dicendo questo. Il progetto è simile, come lo è stato credo anche per Emanuelson, sì. Penso sia venuto anche lui a parametro zero e come altri giocatori che sono venuti a parametro zero. Insomma, no, non hanno stravolto l'identità del Milan, sono stati degli ottimi gregari, ecco. Sì. E spero per l'identità del Milan, e credo comunque che non sia Traoré che debba cambiare identità del centrocampo milanista. Quindi se tu mi dici il Milan al di là di Montolivo che conosciamo bene, che tra l'altro reduce secondo me da un grande europeo ottimo, Traoré, Seedorf e i vecchi sono andati via, la Juventus già con un signor centrocampo che si prende due giocatori per i quali io impazzisco, cioè Isla e Asamoah, sono due giocatori ottimi che io giocatori. Prenderei subito in qualunque squadra e maniera. Beh, mi sembra che a questo punto la distanza sia tanta, La distanza infatti tanta. Io infatti su Moratti non sono, insomma, oddio, hanno preso Handanovic con grandissimo portiere, cercando poi secondo me strategicamente di allontanare, sì, Giulio Cesar, dicendogli ma no, non ti vendiamo, ma insomma, se trovi non ti vendiamo, però stai a casa dal ritiro, esatto, intanto. E poi probabilmente insomma l'idea di Moratti insomma credo sia quella di arrivare intanto secondo e poi vediamo. Sì, ecco, secondo me è abbastanza dura in questo momento, questa Inter non è competitiva, non è finito il mercato, dai, mettiamola così, appena può succedere ancora tutto, stanno trattando Silvestre che magari chiudono anche stasera, quindi insomma La Juventus invece, dicevamo, un discorso che ho fatto l'altro giorno e che secondo me ha un fondamento. Se ti ricordi esattamente un anno fa quando Marotta girava per l'Europa con una valigia di soldi e nemmeno lo ricevevano negli uffici per trattare i vari Agüero, per trattare i vari Van Persie che mi dice andrà a prendere la Juventus, probabilmente sì, eccetera eccetera, questo famoso top player per i quali volavano le porte in faccia, tutti dicevano ma Marotta non ha il physique du role nemmeno, non è abituato a trattare a questi livelli, non lo ricevono, non ha un bel aspetto, eccetera, andetti di tutti i colori. Adesso è tornato il fascino, il grande fascino della signora. Bella, allora, bisogna dire anche questa cosa qui, che all'estero non abbiamo un appeal come lo potevamo avere 7, 8, 10 anni fa. È chiaro che le squadre inglesi hanno un appeal straordinario, adesso il Paris Saint-Germain ha un appeal pazzesco. Beh, i grano, soldi, è chiaro, purtroppo la differenza la fa questa. Adesso noi dobbiamo puntare sul fatto che la Juventus ha vinto un campionato e che si presenta come una squadra che può vincere il prossimo con facilità e che può essere una squadra importante anche in Champions League, sì. Per cui gli stranieri, e nel mio caso giocatori francesi e del Belgio, mi chiedono ma la Juventus? Per cui il fascino della vecchia signora è veramente ritornato. Il fascino della vecchia signora è indubbiamente tornato. Si è parlato, secondo me, abbastanza a sproposito anche di Balotelli per la Juventus. Secondo te Balotelli che fa? Resta al City? Fa il papà a tempo pieno? Va da un'altra parte? Divertente, aspettami, insomma, anche... aspetta Mino Raiola che lo porti al Milan. Beh, sicuramente aspetta Mino Raiola, aspetta di vedere cosa Mino può inventare in questo calciomercato, però credo che se al Manchester City non impazziscono lo tengono, insomma. Io lo terrei. Quanto può valere Balotelli adesso? Non vorrei fare una sparata che è fuori dalle logiche di mercato, però insomma una sessantina di milioni può essere. 60 milioni? Beh, se Hulk, che è un ottimo giocatore del Porto, è in vendita a 50, secondo me Balotelli deve stare più o meno sulla stessa linea. Soprattutto se diventa papà, magari mette la testa a posto. Sì. Eccoci che torniamo con Fabrizio Ferrari, avvocato, procuratore, mio amico, per parlare di mercato e... De Laurentiis, perché l'altro giorno è fiorito davanti agli uffici della Lega Calcio. Ma come si fa a trattare, io poi lo chiederò a Fabrizio Ferrari, con un presidente così? Per quanto riguarda il mercato, Cavani, com'è la situazione? Abbiamo detto di... Ma il mercato, ragazzi, chi si è arrabbiato? No, si è detto oggi che si era un po' arrabbiato con l'agente di Cavani. Guardate, poiché il mondo delle comunicazioni non fanno altro che dire solo cazzate, io ormai non mi arrabbio, né mi di... cioè mi diverto la mattina, qualche volta leggevo tutto quanto, adesso non perdo nemmeno più tempo perché è come se io leggessi un film scritto da altri meno che dal sottoscritto e quindi non vale la pena, no? All'inizio, che non conoscevo il mondo del calcio, mi inquietavo. Adesso non mi voglio più inquietare perché ho detto che i giornalisti di calcio sono dei gran cafoni perché sono interessati soltanto... No, glielo dico a lei, sa perché? Ma no, io mi permetto, le metto anche le mani addosso se lei continua. Sa perché? Sa perché? Lo sa perché o no? Perché non si può parlare della vita solo di soldi. Noi nel cinema siamo dei gran signori, perché di Brad Pitt e di Angelina Jolie non si dirà mai qual è il proprio contratto, mentre invece a voi vi interessa soltanto sapere quanto vale un giocatore, per quanto è stato venduto e quanto guadagna. Beh, occhio, quando vai a trattare dici Soko. Beh, per adesso non ho trattato tantissimo, ho parlato con Bigon di questa cosa... Bigone è molto più tranquillo del presidente. Ma va al Napoli? Per adesso no, nel senso che... E per dopo? Per dopo speriamo. Speriamo. Come lo vedi al Napoli? Al Napoli lo vedrei benissimo. Lo vedresti benissimo? Lo vedrei molto bene. Giocatore dalle caratteristiche tecniche perfette per quel modulo. Però non dipende da me. Perché no. Io una volta che ho proposto il giocatore non posso fare più niente, poi dopo insomma... No certo, anche perché poi devi andare a parlare di soldi e non di caramelle, De Laurentiis. De Laurentiis che è uno che invece di soldi lui non... A parte fa i cachet dei film che tutto sommato si conoscono in linea di massimo. Più o no? Meno. Credo poi, sì, non tratto di cinema, non però più o meno. Di cinema, però più o meno sono scritti sì. Sui giornali come quelli dei giocatori. Ma però De Laurentiis è uno che di soldi proprio non parla mai. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene amati i soldi, perché chi tanti soldi vive come pascià e piedi caldi se ne sta. Ma ce l'hai, so, perché veda, quei straordinari pochi tifosi che quando mi incontrano fanno cacci i soldi, anch'io dico al Tottenham, ma cacci i soldi, ce l'hai, perché a parlare si fa presto. Cacci soldi! Adesso io prenderò in giro tutti quanti dicendo cacci soldi! Anzi, mi devo trovare in napoletano un modo di dirlo in inglese. Ecco, spende the money! Chi tanti soldi vive come un pascià. Allora, 27 maggio 2011, non un secolo fa, dall'Inghilterra chiedevano Amsic, Lavezzi, Cavani, eccetera, eccetera. Beh, credo faccia un po' il gioco delle parti, insomma, il presidente è un presidente piuttosto tosto. A me, devo dirti la verità, io vorrei veramente conoscerlo, perché secondo me è un personaggio molto interessante. Sì, anche a me è simpatico. Io a me sta simpaticissimo, dico la verità, vado contro il corrente, a me piace io seguo la tua corrente, anche a me. Io lo voglio conoscere perché secondo me può darmi... tantissimo, secondo me sì. Mi può veramente insomma spiegare anche altre cose, una visione diversa del mondo del calcio, perché secondo me lui vede veramente, adesso non sono assolutamente polemico o secondo me vede le cose in un modo un po' diverso da quello che lo vedono i manager di calcio degli ultimi 20 anni ed è molto interessante, sono molto curioso davvero, seriamente. Sì, poi sì, dopo poi insomma... devi parlare di soldi allora è un problema. Ma senti, Cavani, spiegami la vicenda Cavani. Allora, Lavezzi al Paris Saint-Germain era scritto nelle stelle, c'è stata anche la benedizione papale di Maradona. Lavezzi a Napoli ha finito il suo ciclo. Io credo che al di là della retorica che si può fare, dei pianti che possono fare i napoletani, avesse ragione Maradona, cioè il ciclo fisiologico di Lavezzi al Napoli era terminato. È stato un affare per entrambi questa cessione. Senza dubbio. Cioè, allora, o parliamo un po', fra virgolette, di sentimenti o di emozioni, allora vogliamo dire che Lavezzi poteva rimanere al Napoli per sempre, per tutta la carriera, per essere il giocatore simbolo del Napoli per sempre, questo è un discorso. Se parliamo di calcio come appunto il ciclo probabilmente tecnico di Lavezzi al Napoli, eccetera, e di business... perché alla fine, insomma, sebbene il presidente non voglia parlare di soldi, poi alla fine di business si parla. Insomma, Lavezzi è stato venduto alla clausola rescissoria che era stata promessa per un contratto di stipendio di Lavezzi che il Napoli non si sarebbe potuto permettere. Certo. Quindi un interesse da parte di entrambe le parti, di tutte e tre le parti. E allora mi devi dire come finisce con Cavani, che legittimamente bussa alla porta di Laurentiis chiedendo i soldi, perché è diventato un top player, perché gli ingaggi sul mercato globale del calcio sono quelli, e quindi lui dice: Presidente, se vuoi che rimanga, mi devi pagare di più. Esatto. Diciamo che fa parte un po' anche di questo compito dell'agente, no? Perché insomma il giocatore ti chiama e ti dice: oh, ma io sono forte quanto X, e perché non prendo quanto X? Voglio prendere quanto X. E quindi il procuratore comincia a bussare alla porta del direttore sportivo, del presidente, comincia a chiedere un ingaggio che sia quantificabile quanto quello del giocatore insomma più importante, o comunque certo, dello stesso tipo di importanza, e dopo diventa complicata la negoziazione, soprattutto in un club come il Napoli, che ha dato un tetto ai suoi ingaggi. Appunto. E allora lì questo tetto rischia di crollare sotto il peso di un ingaggio che è nettamente superiore rispetto a quello questo salary cap autoimposto dal Napoli. Assolutamente. Poi insomma, vuol dire, anche con una certa ragione, secondo me. Però insomma, dopo diventa complicato poter vincere un campionato, partecipare al top per non uno, ma 3, 4, 5 anni, tenendo questo salary cap importante, perché poi alla fine i giocatori inevitabilmente sono vittime di corti, di club più importanti che gli promettono soldi, e dopo mantenere lo stesso livello all'interno del spogliatoio è veramente complicato. Allora, ti faccio una previsione io. Cavani fa ancora una stagione al Napoli e poi viene ceduto l'anno prossimo. Sono d'accordo. Secondo me fa parte di un accordo, di un gentleman agreement con Cavani. Quest'anno va via Lavezzi, l'anno prossimo va via Cavani. Sì, secondo me va così. Altra vicenda di mercato della quale continuo a capire poco, quella relativa a Mattia Destro, che ha anche parlato così. No, io spero comunque, conoscendo tutti e due i presidenti, spero che abbiano entrambi il buon senso di mettersi d'accordo e di darmi la possibilità di andare a giocare in una squadra importante come quelle che ci sono adesso che mi hanno richiesto. Quindi spero appunto che si mettano d'accordo tutto qui. Sinceramente il rapporto è bellissimo e stupendo con tutti e due i presidenti, quindi penso che non ci sia problema sotto questo punto di vista. Sicuramente la motivazione è quella di innanzitutto avere la massima fiducia e poi comunque darmi la possibilità di giocarmela alla pari con tutti gli altri attaccanti che sono a disposizione della rosa, tutto qui. Poi giustamente sarà a me dimostrare se sono pronto o se non sono pronto. Comunque è una cosa che dipende soprattutto da me e dimostrerò quello che saprò fare. Allora, Mattia Destro, spiegami questa storia e dimmi dove va Fabrizio Ferrari. Dove va è complicato, perché credo che il Siena voglia monetizzare l'investimento e in questo momento ha le carte in mano. Quindi in questo momento è vero che il Genoa ha il 50% della proprietà del giocatore, però il Siena in questo momento ha il giocatore. Sì. Quindi deciderà poi il Siena in questo momento, chiaramente d'accordo poi con Preziosi, però il Siena ha le carte in mano e credo che voglia monetizzare il più possibile. Dove lo vedresti un giocatore così? Io? Tra le varie pretendenti che sono quelle che si conoscono. Dove lo vedrei non lo so, perché insomma se vuole giocare titolare è complicato. All'Inter non è un gioca giocatore titolare. Che deve giocare titolare se vuole esplodere. Però Fabrizio, all'Inter non gioca titolare, perché all'Inter gioca Milito. Sì. Cioè, e su questo credo non ci siano dubbi. Hanno provato a giocare a due punte, ma Milito sì, un po', però insomma, poi, Milito, anche no. Dopo un po' dice: aspetta, ecco, in mezzo li metto io e faccio gol. Bravissimo. Alla fine Eto'o giocava a sinistra o a destra, non giocava in mezzo. Ecco, se Eto'o giocava di là, destro, lo vedo male a giocare in mezzo. Quindi Inter no. Juventus se non prende Van Persie, altrimenti non gioca nemmeno alla Juventus. Sì, o a meno che non facciano giocare Van Persie dietro la prima punta. La vedo dura. E Roma. Roma. Roma. Roma con Zeman. Roma con Zeman. Come vedi la Roma di Zeman? Che allora, da ieri è a Brunico ieri, a fare i gradoni. Infatti la vedo benissimo. La vedi benissimo. Io non so, sono un romantico, mi piace. Mi piaceva anche Luis Enrique, cosa volete dire? Quindi sono un po' strano. Allora ti regalo il libro di cui ho parlato ieri, Kansas City 1927, scritto da Diego Bianchi e Simone Conte, tutto in romanesco. Volentieri, lo leggo volentieri. Il progetto di Zeman mi diverte moltissimo, sono curiosissimo di vederlo. secondo me sarà, come al solito, la squadra di Zeman piuttosto divertente. È chiaro che, come al solito, siamo davanti a un po' una scommessa. Potrebbe essere una squadra che arriva secondo o terza, come potrebbe essere una squadra che in Serie A fa fatica a reggere a livello difensivo e con i soliti, fra virgolette, problemi, potrebbe poi evidentemente ritagliarsi un quinto posto, un sesto posto. Però sono fiducioso, mi piace, sono entusiasta. Secondo me Zeman può veramente far divertire il pubblico romano. L'altra metà di Roma di cui si parla sempre abbastanza poco, cioè la Lazio? Sempre meno anche. Sempre meno. Sempre meno. Nonostante abbia dei giocatori veramente incredibili. Secondo me ha dei giocatori di talento notevole. Tipo? Beh, Hernanes è un grandissimo. Il Profeta è veramente un grande giocatore. Close è stato un attaccante che se sta bene fisicamente... gioca benissimo, hanno Biava e Dias che se stanno bene sono una cerniera difensiva veramente importante, hanno un portiere che stranamente non se ne parla più da un anno, ma Marchetti è un grandissimo portiere, quindi secondo me è una buona squadra. Hanno cambiato un allenatore che vinceva per uno che chissà. Sì, questa è stata un'operazione veramente strana, non so poi le dinamiche, ma come Lotito... Le dinamiche... Lotito è sempre un po' particolare, anche lui fa... Ha sempre delle scelte forti, però insomma la Lazio è una buona squadra che alla fine insomma lotterà sempre per insomma i posti top della classifica. Eccoci Fabrizio Ferrari, tra poco parliamo anche di mercato di basket, perché come sai io a parlare un'ora di pallone nonostante con tutto il bene che ti voglio mi annoio un po', ma toglimi un altro interrogativo che ho. Un ascoltatore ieri mi chiama e mi chiede, ma Diamanti, ma come mai Diamanti, che reduce da comunque da un eccellente europeo insieme all'Italia, che reduce da un campionato favoloso con il Bologna, ebbene, tutto si è risolto in una comproprietà che l'ha portato definitivamente a Bologna, ma non c'è nessuno che è andato lì a dire, scusate Diamanti... Io? Quanto viene? Io? Io? No, guarda, le dinamiche di mercato sono piuttosto strane. Ci siano dei giocatori che sono destinati ad essere genietti, guarda, di provincia. Sì, come poi i numeri 10, porca miseria, in Italia siamo veramente scarsi a valorizzarli. Cioè, un numero 10 così in un'altra nazione sarebbe osannato per mesi. Ma poi tornato indietro. Sì, è un giocatore strano, un giocatore molto estroso, con un piede straordinario, calcia le punizioni in modo divino, capace veramente di fare la differenza in 5 minuti. Però evidentemente insomma le squadre cercano una compattezza diversa, non so, una sicurezza diversa nei 90 minuti, non saprei. Poi, guarda, è anche vero che questo mercato è partito veramente in sordina. Aspettiamoci dei colpi forti anche a metà luglio. Io sono convinto che alla fine questo mercato partirà fortissimo. Guarda, sì, sono convinto che alla fine mi chiamerai fra 15 giorni e dirai che fai, bellissimo. Parliamo di questo trasferimento stupendo, l'Inter, il Milan, la Juve, bellissimo. 10 certo trasferimenti. E certo che lo facciamo. Guarda, Franco Piantalinda prende nota e poi ti fa firmare con il sangue, sta dicendo. Andata. Invece Emiliano Carchia, direttore di Sportando, sito internet che ha fatto il botto sul basket mercato. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Senti, ma questo mercato del calcio, dice Fabrizio Ferrari, farà il botto a metà luglio. Il mercato del basket quando fa il botto, se fa il botto? Beh, se farà il botto, quello italiano sarà anche in questo caso, come per il calcio, a metà luglio, a meno che la squadra non si chiami Olimpia Milano, che ha praticamente già quasi chiuso il suo mercato in vista della prossima stagione. Tutti ora aspettano che appunto si muovano sia Cantù che Siena, campione d'Italia, da cui è attesa una grandissima rivoluzione dopo la partenza di Simone Pianigiani per il Fenerbahce e la Turchia. E il domandone è che Siena sarà? Sarà una Siena forse molto simile a quella del primo anno di Pianigiani, quando prese appunto le redini della squadra da Charlie Recalcati, e quindi una Siena che punterà su giocatori giovani, magari non già conosciuti a livello europeo, ma appunto con voglia di emergere in un ambiente che comunque negli ultimi 6 anni ha dominato in Italia e in Europa, ha fatto la voce grossa pur non avendo un budget a livello delle big. Quindi quindi sarà una Siena che intanto ha preso uno dei giovani italiani più promettenti, Daniel Hackett, forse il migliore italiano della scorsa stagione, soffiandolo proprio a Milano, che negli ultimi minuti ha provato a entrare in gioco, ma ha scelto comunque Siena Hackett. E poi sarà una Siena che bisognerà capire che fine faranno i vari McCaleb, Andersen, su cui, e soprattutto Stonerook, se pare che sia vicino al ritiro, ma l'ufficialità ancora deve arrivare. Fabrizio, questi siti di mercato che sono esplosi, voi addetti ai lavori, voi procuratori, quanto li leggete, quanto li consultate, quanto sono importanti per... Sono fondamentali, sì, infatti parlando con il tuo ospite ascoltavo con molta attenzione, perché secondo me per gli operatori di mercato sono fondamentali, sono delle vere e proprie bibbie su cui veramente consultare, prendere idee, prendere spunti, cercare di capire dove muoversi, chi chiamare. Perché alla fine, bisogna dire la verità, questi ragazzi, questi giornalisti hanno una fame pazzesca e si inventano anche delle possibilità di mercato che nemmeno a noi possono venire in mente, e delle volte hanno delle idee che qualche miseria le prendiamo noi alla fine. È così, Emiliano Carchia? Ma sì, diciamo che ogni tanto capita di provare a scrivere qualcosa, ipotizzare qualche scenario. Per quanto mi riguarda cerco sempre di avere più uno o due delle conferme prima di scrivere una news. Vabbè. Perché comunque essendo un sito molto letto mi dispiace a volte, poi capita, sono così tanti rumors coprendo il mercato su tutta Europa, NBA. Quanti contatti? Guarda, ieri è stato il record con 50.881 in un giorno solo. Bravo, bravo. No, io sono molto contento perché come nel calcio esistono questi siti dove puoi veramente verificare se un giocatore è stato trasferito, si dà l'ufficialità, eccetera, credo che nel basket fosse una necessità, no? Sì, sì, penso che anche nel basket, perché comunque è il secondo sport più seguito d'Italia, diciamo, okay. Quindi è anche giusto che abbia il suo spazio, che purtroppo non ha così ampio... nelle varie edizioni sportive in TV. Quindi sportando, come tutto mercato web, è appunto il sito di riferimento per, sì, credo per chi fa il mestiere di Fabrizio, sì, Ferrari, procuratore di calciatori. Emiliano, ti faccio una domanda in leggera differita, perché ieri un ascoltatore mi ha scritto: che fine farà Belinelli? Che fine farà Belinelli? Penso che è una domanda a cui vuole la risposta lo stesso Belinelli. Rimarrà agli Hornets? Bisognerà vedere. Gli Hornets hanno poco spazio salariale, soprattutto se adesso pareggeranno nei prossimi giorni l'offerta che è stata fatta dai Suns per Eric Gordon. È un'offerta impegnativa, che 50 milioni di dollari nei prossimi 4 anni, che appunto, se verrà pareggiata agli Hornets, come sembra, toglierà ancora più spazio salariale per fare un'offerta a Belinelli, che comunque reduce da 2 stagioni in doppia cifra di media e dovrebbe andare a guadagnare tra i 5 e i 10 milioni di dollari l'anno. Quindi al momento è ancora sconosciuto il suo destino, il suo futuro. Gli Hornets vorrebbero trattenerlo, ma potrebbero non avere i soldi giusti per farlo rimanere a New Orleans, dove c'è anche il futuro talento Anthony Davis, che è stato appena scelto al draft, alla numero 1. Sì. C'è Fabrizio Ferrari che voleva sapere invece di un altro giocatore. Ho visto che c'è stato il trasferimento di Steve Nash a Los Angeles. Sì, bel colpo, no? È stato raggiunto nella notte. Tre anni di contratto, ragazzi. Tre anni ad un 39enne. Anni di contratto a uno che ne ha 39. E poi Prandelli garanzia. Dice che siamo un paese di vecchi, ragazzi. 3 anni di contratto a 25 milioni di dollari totali, diciamo che è un trasferimento che è arrivato a sorpresa. Fino al tardo pomeriggio di ieri sembrava ad un passo da New York, dove lui comunque spende tutta l'estate, dove lui vive appunto nel periodo estivo quando la stagione finisce. C'era New York, c'erano i Raptors che volevano riportarlo in Canada, essendo lui canadese, e fargli finire appunto la carriera nel suo paese nativo. Che hanno offerto Raptors, che erano arrivati ad offrire anche un triennale da 36 milioni di dollari totali. Lui ha scelto i Los Angeles forse perché tra le tre è la squadra che ha più chance di poter arrivare al titolo, che ancora che ancora gli manca. Sì. Quindi è una scelta. Una scelta professionale, diciamo. Una scelta professionale. Scelta professionale, sì, quella di Steve Nash. 39 anni, 3 anni di contratto, grandissimo. Grazie, Emiliano. Alla prossima. Grazie mille. Buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro, Emiliano Cacchia. Io, prima di salutare tutti, anche Fabrizio Ferrari, voglio parlare invece di golf. Perché cosa stai combinando con il golf? Sto organizzando. Non ti basta il calcio, adesso il golf. No, sto organizzando una cosa bellissima: un torneo under 18 a Gardagolf. GGL International Tournament Under 18, molto bello, con Business to Green. Beh, io vengo, poi dico se è bello. Bravo, vieni, vi invito a venire dal 16 al 20 luglio a Gardagolf, che fra l'altro è il campo di allenamento di Manassero, che probabilmente, non posso dare certezza, sarà lì durante il torneo. Sono invitati anche qualche personaggio famoso in questa famosa Pro-Am che si disputa prima del torneo ufficiale, in cui giocano i ragazzi under 18 con dei personaggi famosi o comunque degli imprenditori, e chi vuole giocare, chi vuole partecipare. E sarà una cosa molto divertente, e, insomma, credo che possa essere finalmente un bel evento golfistico internazionale in una zona interessante come Lombardia. C'è anche qualche golfista femmina? Ovviamente tra quelli famosi? Qualche donna golfista? No, sono giovani, Sono giovani, under 18. No, non dico tra i personaggi famosi. Boh, non lo so, vedremo. Vabbè, vengo a vedere, poi vi racconto se è stato divertente o no. Grazie. Grazie a te, Fabrizio Ferrari, grazie anche a Franco Piantanini in redazione. A Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo ovviamente anche sabato 17-18, domenica 17-18. Lunedì invece vi lascio per una settimana alle sapienti cure di Claudio Arrigoni. Buona giornata a tutti.